Silenziosa stella d'ombre salir, le voci d'elle Or lasciami al lavoro. Mi dispacci. Or c'è l'ombra, lo sai. Vado. Tanti pel mondo. Aspetta.